Il signor Thornton parlò in modo franco. Mi dispiace, signorina Hale, che siate venuta a farci visita in questo infelice momento. Temo potreste essere coinvolta in qualsiasi pericolo che dovremmo affrontare. Madre, non fareste meglio ad andare nelle stanze sul retro? Potrebbero essersi dirette nel cortile della scuderia da Pinner's Lane. E comunque, se non è così, lì sareste più al sicuro che qui. Vai, Jane, continuò rivolgendosi alla prima domestica e lei andò seguita dalle altre. Io resto qui, disse sua madre. Dove stai tu, sto io. In realtà, ritirarsi nelle stanze posteriori era inutile. La folla aveva circondato gli edifici sul retro e il suo ruggito minaccioso e terribile arrivava da lì. I domestici, urlando e piangendo, si rifugiarono in soffitta. Il signor Thornton, sentendoli, fece un sorrisetto sdegnato. Lanciò un'occhiata a Margaret, che si era affacciata tutta sola alla finestra più vicina alla fabbrica. Le brillavano gli occhi, le guance e le labbra erano diventate ancora più rosse, come percependo il suo sguardo, si voltò verso di lui e gli fece una domanda che da qualche tempo aveva in mente. Dove sono i poveri operai che avete importato? Lì, nella fabbrica? Sì, li ho lasciati tutti rannicchiati in una piccola stanza in cima alla scala posteriore. Ho ordinato loro di arrischiarsi a scappare giù da lì se sentono che le porte della fabbrica vengono attaccate, ma non sono loro, è me che vogliono. Quando riusciranno a essere qui i soldati? Chiese sua madre con voce bassa ma ferma. Tirò fuori il suo orologio con la stessa ponderata calma con cui faceva tutto, fece alcuni rapidi calcoli. Mettiamo che Williams sia uscito immediatamente appena gliel'ho ordinato e che non abbia dovuto escogitare qualcosa per passare tra la folla. Ci vorranno ancora 20 minuti. 20 minuti! Disse sua madre con un tono di voce che rivelava il suo terrore per la prima volta. Chiudete immediatamente le finestre, madre! Esclamò. I cancelli cederanno al prossimo scossone. Chiudete quella finestra, signorina Hale. Margaret chiuse la sua finestra e andò ad assistere la signora Thornton, alla quale tremavano le mani. Per una qualche ragione ci furono parecchi minuti di silenzio nella strada che non si vedeva. Agitata e sconvolta, la signora Thornton guardò in faccia il figlio come per avere da lui l'interpretazione di quell'improvviso silenzio. Il volto di Thornton era contratto in un'espressione di sfida sprezzante. Non vi si potevano leggere né speranza né paura. Fanny si alzò. Se ne sono andati? Chiese in un sussurro. Se ne sono andati, rispose lui. Senti? E lei ascoltò. Tutti riuscirono a sentire quell'unico enorme sforzo per prendere fiato, lo scricchiolio del legno che lentamente si rompeva, il violento strappo dell'inferriata, l'imponente cancello che si schiantava al suolo. Fanny si alzò in piedi, tutta barcollante, fece alcuni passi verso sua madre e svenne tra le sue braccia. La signora Thornton la sollevò con una forza che era tanto di volontà quanto fisica e la portò via. Oh! Grazie a Dio, disse il signor Thornton vedendola uscire. Non fareste meglio ad andare di sopra, signorina Hale? Le labbra formarono un no, ma lui non riuscì a sentirlo per il chiasso degli innumerevoli passi che incalzavano proprio sotto quel muro della casa e per il ringhio feroce delle voci cupe e furiose che mormoravano con una certa violenza la loro soddisfazione più spaventosa delle loro grida confuse di pochi minuti prima. Non preoccupatevi, disse lui pensando di incoraggiarla. Sono molto dispiaciuto che siate rimasta intrappolata in questo pericolo, ma non potrà durare a lungo ormai. Ancora qualche minuto e i soldati saranno qui. Oh, mio Dio! Urlò Margaret improvvisamente. Quello è Boucher! Riconosco la sua faccia, anche se è livida di rabbia. Sta tentando di arrivare davanti, guardate! Guardate! Chi è Boucher? Chiese il signor Thornton con una certa freddezza, avvicinandosi alla finestra per scoprire chi fosse l'uomo al quale Margaret era così interessata. Non appena videro Thornton, emisero un urlo a dir poco disumano. Era come il diabolico desiderio di un qualche spaventoso animale selvatico per il cibo che gli impediscono di razziare. Anche lui indietreggiò per un momento, sconcertato per l'intensità di quell'odio che aveva provocato. Che gridino pure, disse. Ancora 5 minuti e spero soltanto che i miei poveri irlandesi non siano spaventati a morte da questo rumore infernale. Mantenete il vostro coraggio per 5 minuti, signorina Hale. Oh, non preoccupatevi per me, disse lei frettolosamente. Ma cosa succederà tra 5 minuti? Non potete fare nulla per calmare queste povere creature. È terribile guardarli. I soldati saranno qui subito e li faranno ragionare. Ragionare? Si affrettò ad aggiungere Margaret. Come? Oh, l'unico modo di ragionare che funzioni con uomini che si comportano come bestie selvagge. Oh mio Dio, hanno svoltato verso il portone della fabbrica. Signor Thornton, disse Margaret tremando tutta per l'impeto, se non siete un codardo andate giù in questo preciso momento, scendete e affrontateli da uomo, salvate questi poveri stranieri che avete fatto venire fin qui, parlate ai vostri operai come esseri umani, parlate loro con franchezza, non lasciate che i soldati arrivino e feriscano povere creature in preda alla follia, ne vedo uno laggiù che è così, se avete dentro di voi coraggio o altre nobili qualità, uscite e parlate loro, da uomo a uomo, con onestà. Si voltò a guardarla mentre parlava. Una nube scura piombò sul suo viso mentre l'ascoltava. Nel sentire le sue parole strinse i denti. «Ci andrò. Magari posso chiedervi di accompagnarmi al piano di sotto e di sprangare la porta dietro di me. Mia madre e mia sorella avranno bisogno di questa protezione». «Oh, signor Thornton, non lo so, magari mi sbaglio, solo...» Ma era sparito. Era di sotto, nell'ingresso, aveva tolto la sbarra alla porta principale. Tutto quello che poteva fare era sbrigarsi a seguirlo e chiuderla dietro di lui. Poi si precipitò di nuovo su per le scale, con la morte nel cuore e la testa che le girava. Riprese il suo posto alla finestra più lontana. Lui era sugli scalini, lì sotto. Lo capì dalla direzione verso cui migliaia di occhi pieni di ira guardavano. Ma non riusciva né a vedere né a sentire nulla, a parte il furioso mormorio di soddisfazione selvaggia che diventava sempre più forte. Spalancò la finestra. Nella folla molti non erano che dei ragazzi, crudeli e sventati. Crudeli perché sventati. Alcuni erano uomini smunti come lupi e famelici. Lei sapeva come stavano le cose. Erano come Boucher, con i bambini a casa a fare la fame e confidavano nel definitivo successo delle loro fatiche per ottenere salari più alti e si erano oltremodo inferociti quando avevano scoperto che gli irlandesi erano stati portati lì a lasciare i loro figli senza pane. Margaret sapeva tutto, lo leggeva sul volto di Boucher, estremamente disperato e livido di rabbia, a parer suo, se il signor Thornton avesse detto loro soltanto qualcosa, se avesse fatto semplicemente sentire la sua voce, sarebbe stato meglio di questo violento colpire e inveire contro una fredda barriera di silenzio che non concedeva loro nessuna parola, nemmeno di rabbia o rimprovero. Ma forse adesso stava parlando. Ci fu un'interruzione momentanea di quel frastuono inarticolato come quello di un branco di animali. Lei si strappò di dosso il cappellino e si piegò in avanti per sentire. Riuscì soltanto a vedere. Infatti, se il signor Thornton aveva effettivamente tentato di parlare, il momentaneo istinto di ascoltarlo se n'era bello che andato e la folla inveiva più che mai. Era in piedi, con le braccia conserte, immobile come una statua. Il suo viso era contratto per l'agitazione che reprimeva. Stavano cercando di intimidirlo, di farlo indietreggiare. Ognuno incitava l'altro a fare subito qualche gesto violento contro di lui. Margaret intuì che di lì a poco ci sarebbe stato un gran putiferio. Il primo contatto avrebbe innescato un'esplosione in cui tra quelle centinaia di uomini furenti e ragazzi sprovveduti la vita stessa del signor Thornton sarebbe stata in pericolo. Intuì che sarebbe bastato un altro istante e le burrascose passioni avrebbero superato i limiti, spazzando via ogni freno della ragione o della preoccupazione per le conseguenze. Proprio mentre guardava, notò dei ragazzi in fondo che si chinavano a prendere i loro pesanti zoccoli di legno, l'unica arma disponibile. Sentì che era la scintilla per la polvere da sparo e con un grido che nessuno udì si precipitò fuori dalla stanza, al piano di sotto. Aveva sollevato l'enorme sbarra d'acciaio della porta con una forza prepotente, aveva spalancato la porta ed era lì, di fronte a quella marea di uomini inferociti e dagli occhi Margaret lanciava infuocate frecciate di rimprovero. Gli zoccoli rimasero bloccati nelle mani che li tenevano, i volti, così feroci neanche un attimo prima, sembravano titubanti, come se chiedessero cosa significasse. Infatti lei si trovava tra loro e il nemico. Non riusciva a parlare, ma alzò le braccia verso la folla finché non riuscì a riprendere fiato. «Vi scongiuro, non usate la violenza! Lui è un uomo solo e voi siete in molti!» Ma le sue parole morirono strada facendo, poiché non c'era nessun tono nella sua voce. Non fu altro che un rauco sussurro. Il signor Thornton stava in piedi di lato, si era spostato e non era più dietro di lei, come fosse geloso di qualsiasi cosa si mettesse tra lui e il pericolo. Andatevene, disse lei di nuovo. E adesso la sua voce era diventata un grido. Sono stati chiamati i soldati. Stanno arrivando. Andate in pace. Andate via. Avrete una risposta alle vostre richieste, qualsiasi esse siano. Le rispedirete a casa loro, quelle canaglie irlandesi? Chiese uno della folla con voce estremamente minacciosa. Mai, se siete voi a ordinarmelo, gridò il signor Thornton. E immediatamente scoppiò il tumulto. Si sollevarono fischi che riempirono l'aria, ma Margaret non li sentì. I suoi occhi erano puntati sul gruppo di ragazzi che si erano armati di zoccoli poco prima. Osservò i loro gesti, sapeva quello che significavano, capì il loro scopo. Ancora un altro istante il signor Thornton sarebbe stato colpito, ed era stata proprio lei a convincerlo, incitarlo a gettarsi in mezzo al pericolo. Pensò solo a come poteva salvarlo. Gli buttò le braccia al collo e il suo corpo fece da scudo contro la folla inferocita, ma lui la spinse via e rimase immobile con le braccia conserte. Andatevene, disse con la sua voce profonda. Questo non è posto per voi. Oh, lo è, invece, disse lei. Non avete visto quello che ho visto io. Se pensava di essere al sicuro perché era una donna, se aveva ritratto gli occhi spaventati dalla terribile furia di quegli uomini, con la vaga speranza che prima che si fosse nuovamente voltata a guardarli, questi si sarebbero fermati a riflettere per poi allontanarsi e scemare, si sbagliava di grosso. La loro impulsiva collera li aveva spinti troppo oltre perché potessero fermarsi, o perlomeno aveva spinto troppo oltre alcuni di loro, poiché sono sempre i ragazzi, amanti delle emozioni violente, a guidare la rivolta, incuranti dello spargimento di sangue che ne può seguire. Uno zoccolo sfrecciò nell'aria. Gli occhi sbarrati di Margaret ne seguirono la traiettoria. Mancò il suo bersaglio e lei si sentì male per lo spavento, ma non si spostò, limitandosi a nascondere la faccia sul braccio del signor Thornton. Poi si voltò e parlò di nuovo. Per l'amor del cielo, non rovinate la vostra causa con questa violenza. Non sapete quello che fate. Si sforzò di scandire bene le parole. Un sasso appuntito la colpì, ferendole la fronte e la guancia e tracciando un accecante lampo di luce davanti ai suoi occhi. Si accasciò come morta sulla spalla di Thornton. Quindi lui aprì le braccia e, cingendole la vita per un istante, disse: Complimenti! Siete venuti a prendervela con una forestiera innocente! Vi scagliate in centinaia contro un uomo solo e quando una donna viene da voi per chiedervi, per il vostro bene, di essere creature ragionevoli, la vostra vile collera ricade su di lei. Complimenti. Rimasero in silenzio mentre parlava. Osservavano con occhi e bocche spalancati il filo di sangue rosso scuro che li risvegliava dalla follia della loro rabbia. I più vicini all'uscita se ne andarono di nascosto per la vergogna. Si propagò un movimento attraverso l'intera folla, un movimento di ritirata. Si levò soltanto un grido. Il sasso era per voi! Ma vi siete riparato dietro una donna! Thornton fremeva di rabbia. Il sangue che colava fece riprendere a Margaret coscienza, una coscienza vaga e debole. Lui la sistemò con delicatezza sullo scalino di ingresso, con la testa contro la cornice della porta. Riuscite a rimanere qui? Domandò. Ma senza aspettare la risposta, scese lentamente le scale e andò proprio in mezzo alla folla. Adesso uccidetemi! Se questa è la vostra crudele volontà, non c'è nessuna donna a farmi da scudo. Potete picchiarmi a morte, non mi smuoverete mai dall'intenzione che ho già espresso. Non voi. Rimase in piedi in mezzo a loro con le braccia conserte nella stessa posizione che aveva prima sulle scale. Ma avevano incominciato a ritirarsi verso l'uscita in modo sconsiderato, forse irragionevole, come quella rabbia che continuavano a provare. Oppure magari furono spinti dall'idea dei soldati che si stavano avvicinando e dalla vista di quel volto pallido rivolto verso l'alto, con gli occhi chiusi, triste e immobile come il marmo, nonostante le lacrime sgorgassero dal groviglio delle lunghe ciglia. E il rivolo di sangue che lentamente scorreva fuori dalla ferita era ben più preoccupante delle lacrime. Persino Boucher, il più disperato di tutti, indietreggiò, si allontanò barcollando, arrabbiato, e alla fine se ne andò, borbottando e imprecando contro il padrone che stava in piedi, sempre nella stessa posizione, sorvegliando la loro ritirata con sguardo di sfida. Nel momento in cui la ritirata si trasformò in fuga, come normalmente avviene, il signor Thornton salì di corsa le scale per andare da Margaret. Lei Cercò di alzarsi senza il suo aiuto. Non è niente, disse con un debole sorriso. È un'escoriazione e sono rimasta stordita sul momento. Oh, sono così contenta che se ne siano andati. E scoppiò in un pianto liberatorio. Lui non riusciva a comprenderla. La sua rabbia non si era attenuata, al contrario, stava crescendo sempre di più mentre la percezione dell'imminente pericolo diminuiva. Si udì in lontananza il fragore dei soldati che, se fossero arrivati soltanto 5 minuti prima, avrebbero fatto sentire il potere dell'autorità e dell'ordine a quella plebaglia ormai sparpagliata. Sperò che gli uomini vedessero le truppe e che fossero frenati dal pensiero di averla scampata per un pelo, mentre questi pensieri attraversavano la mente di Thornton. Margaret afferrò lo stipite della porta per tirarsi su, ma un velo sottile le oscurò la vista. Lui fece appena in tempo ad afferrarla. Madre! Madre! Gridò. Scendete! Se ne sono andati e la signorina Hale è ferita! La portò nella sala da pranzo e la mise distesa sul divano. La posò dolcemente e, fermandosi a guardare la candida purezza del suo viso, i suoi sentimenti per lei gli si rivelarono con una tale intensità che, con grande dolore, li espresse a voce alta. Oh, Margaret! Mia cara Margaret! Nessuno può dire quello che siete per me. Priva di sensi, fredda come siete adesso, qui, distesa, siete l'unica donna che abbia mai amato. Oh, Margaret, Margaret! Le sue parole erano confuse e, inginocchiato accanto a lei, le mormorava invece di pronunciarle. E quando sua madre entrò, balzò in piedi, vergognandosi di se stesso. Lei non vide nient'altro che il volto del figlio leggermente più pallido e serio del solito. La signorina Hale è ferita, madre. Un sasso le ha colpito la tempia. Ho paura che abbia perso un bel po' di sangue. Pare una ferita molto grave. Sembra che sia morta, disse la signora Thornton piuttosto allarmata. È solo svenuta, mi ha parlato poco fa. Il cuore sembrava risucchiargli tutto il sangue che aveva in corpo mentre parlava e tremava. Vai a chiamare Jane. Lei sa dove sono le cose che mi occorrono e tu vai dagli irlandesi che piangono e gridano come pazzi per la paura. Lui andò, se ne andò come se ogni arto che lo portava lontano da lei fosse gravato da pesi. Chiamò Jane, chiamò sua sorella, doveva avere tutta l'assistenza femminile possibile, tutte le più gentili attenzioni, ma i battiti del suo cuore acceleravano al ricordo di come lei fosse scesa e si fosse esposta in prima persona al pericolo. Che fosse stato per salvare lui? In quel momento l'aveva spinta da parte, aveva parlato con una certa durezza, non aveva visto altro che l'inutile pericolo in cui si era messa. Andò dai suoi irlandesi, con tutti i nervi del corpo scossi al pensiero di lei, e trovò difficile riuscire a capire quello che dicevano per calmarli e placare le loro paure. Sostenevano che non si sarebbero fermati lì, pretendevano di essere rimandati indietro. E così fu costretto a pensare, parlare, ragionare. La signora Thornton bagnava le tempie di Margaret con acqua di colonia. Appena l'alcol toccò la ferita, di cui fino a quel momento né la signora Thornton né Jane si erano accorte, Margaret aprì gli occhi, ma era evidente che non sapeva dove fosse e nemmeno chi fossero loro. Le occhiaie divennero ancora più scure, le labbra tremarono e si contrassero e perse nuovamente i sensi. Ha preso un brutto colpo, disse la signora Thornton. C'è qualcuno qui che può andare a chiamare un dottore? Non io, signora, se non vi dispiace, rispose Jane indietreggiando. Quella gentaglia potrebbe essere in giro, non penso che il taglio sia così profondo, signora, da come sembra. Non correrò rischi, è stata ferita a casa nostra. Se sei una codarda, Jane, io no, ci andrò io. Oh, vi prego, signora, lasciate che mandi una delle guardie, ce ne sono tante qui, e anche di soldati. Eppure, tu hai paura di andare. Non voglio rubare tempo a loro con le nostre faccende. Avranno abbastanza da fare per catturare qualcuno di quei mascalzoni. Non avrai paura di restare qui in casa? Domandò con tono sprezzante. E continuare a bagnare la fronte della signorina Hale, vero? Non starò via più di 10 minuti. Non potrebbe andarci Anna, signora? Perché Anna? Perché tutti tranne te? No, Jane, se non ci vai tu, ci vado io. La signora Thornton si recò prima nella stanza in cui aveva lasciato Fanny, che si alzò non appena entrò la madre. Oh, mamma, mi avete spaventata! Ho pensato fosse un operaio che era entrato in casa. Sciocchezze! Gli operai sono andati via tutti. Ci sono soldati ovunque. Cercano di fare il loro lavoro, ma è troppo tardi. La signorina Hale è distesa sul divano nella sala da pranzo con una brutta ferita. Sto andando a chiamare il dottore. Oh, non andare, mamma, ti uccideranno! Si aggrappò alla gonna della madre. La signora Thornton si svincolò senza la minima gentilezza. Trovami qualcun altro che ci vada. Ma quella ragazza non deve morire dissanguata. Sanguina! Oh, che orrore! E come si è ferita? Non lo so, non ho avuto il tempo di chiederlo. Vai, Fanny, e cerca di renderti utile. Jane è con lei, e spero che sia meno grave di come sembra. Jane si è rifiutata di uscire di casa. Che donna codarda! E io non mi permetterò di ricevere altri rifiuti dai miei servi. Quindi ci andrò io stessa. Oh mio Dio! Esclamò Fanny piangendo e preparandosi a scendere per non rimanere da sola col pensiero di ferite e spargimenti di sangue proprio in casa sua. Oh Jane! Disse entrando furtivamente nella sala da pranzo. Cosa succede? Sembra così bianca! Come si è ferita? Hanno tirato sassi fin dentro la sala da pranzo! Margaret aveva davvero un aspetto sofferto ed esangue, anche se stava riprendendo i sensi, ma lo stordimento dovuto allo svenimento la rendeva ancora estremamente debole. Si rendeva conto che qualcuno si muoveva intorno a lei, dell'effetto rinfrescante dell'acqua di colonia, e desiderava intensamente che quegli impacchi continuassero senza sosta, ma quando venivano interrotti per parlare non riusciva ad aprire gli occhi o a chiederne altri, come accade alle persone che sono in uno stato di morte apparente e non possono muoversi o emettere suoni per fermare gli orribili preparativi della loro sepoltura, mentre sono invece completamente coscienti, non semplicemente azioni di coloro che hanno intorno, ma dell'idea che muove quelle azioni. Jane smise di fare impacchi per rispondere alla domanda della signorina Thornton. Sarebbe stata abbastanza sicuro se fosse rimasta in salotto o se fosse venuta su da noi. Eravamo nell'abbaino sul davanti e siamo riusciti a vedere tutto, stando al sicuro. E dov'era lei allora? Disse Fanny avvicinandosi piano piano perché si stava abituando alla vista del volto pallido di Margaret. Proprio davanti alla porta d'ingresso con il padrone, disse Jane in modo incisivo. Con John? Con mio fratello? E come c'è finita lì? Ah no, signorina. Non tocca a me dirlo, rispose Jane scuotendo leggermente il capo. Sara! Sara cosa? Chiese Fanny con impaziente curiosità. Jane ricominciò con gli impacchi, come se ciò che Sara avesse fatto o detto non fosse esattamente quello che voleva raccontare. Sara cosa? Chiese Fanny bruscamente. Non lasciare le frasi a metà, altrimenti non posso capirti. Va bene, signorina, dal momento che lo chiedete ve lo dirò. Sara, sapete, stava nel posto in cui si vedeva meglio, ovvero alla finestra di destra, e dice, e lo ha detto anche in quel preciso momento, che ha visto la signorina Hale con le braccia intorno al collo del padrone e lo stringeva davanti a tutti. Non ci credo, disse Fanny. So che ha un interesse per mio fratello, è evidente a tutti, e suppongo che si caverebbe un occhio pur di sposarlo, cosa che lui non farà mai, te lo posso garantire. Ma non credo che sia così sfacciata e audace da mettergli le braccia intorno al collo. Povera ragazza, l'ha pagata cara se l'ha fatto. Sono convinta che le sia salito così tanto sangue in testa per il colpo che non si riprenderà più. Sembra un cadavere adesso. Oh, vorrei che mamma tornasse, disse Fanny torcendosi le mani. Non sono mai stata nella stessa stanza con un morto in vita mia. Aspettate, signorina, non è morta. Le palpebre si stanno muovendo e grosse lacrime le stanno scendendo giù per le guance. Parlatele, signorina Fanny. State meglio ora? Domandò Fanny con voce tremolante. Nessuna risposta, nessun segno di riconoscimento, ma le labbra apparivano leggermente più rosate, sebbene il resto del viso fosse cereo. La signora Thornton entrò di corsa con il primo medico che era riuscita a trovare. Come sta? State meglio, mia cara? Mentre Margaret apriva gli occhi velati e la fissava con sguardo assente. Ecco il signor Law, è venuto a visitarvi. La signora Thornton parlò a voce alta e scandendo bene le parole come si fa con le persone sorde. Margaret cercò di alzarsi e coprì istintivamente la ferita con i folti capelli scompigliati. Sto meglio adesso, disse con voce bassa e flebile. Ho avuto un leggero malessere. Lasciò che le prendesse la mano e le sentisse il polso. Per un momento il suo volto riprese colore, quando il dottore le chiese di poter vedere la ferita sulla fronte, e lanciò un'occhiata furtiva a Jane, quasi temendo la sua ispezione più di quella del dottore. Penso che non sia niente, sto meglio ora. Devo andare a casa. Non prima che io vi abbia messo qualche garza e dopo aver riposato un po'. Si mise subito a sedere senza dir nulla e si lasciò bendare. Ora, con il vostro permesso, devo andare, disse lei. Mia madre non lo vedrà, credo, è coperto dai capelli, vero? Completamente, nessuno riuscirebbe a notarlo. Ma non potete andare, disse la signora Thornton con tono spazientito. Non state ancora abbastanza bene per farlo. Devo, disse Margaret decisa. Pensate a mia madre. Se dovessero venire a sapere, a parte tutto, devo andare, disse con un certo impeto. Non posso restare qui. Posso chiedere una carrozza? Sembrate piuttosto avvampata e febbricitante, osservò il signor Low. È solo perché sono qui, quando invece non desidero altro che andarmene. L'aria, uscire fuori, mi faranno meglio di qualsiasi cosa, supplicò. Credo proprio che abbia ragione, replicò il signor Low. Se sua madre è così malata come mi avete detto venendo qui, potrebbe essere molto pericoloso se viene a sapere di questa rivolta e non vede tornare sua figlia all'ora prevista. La ferita non è profonda. Chiamerò io una carrozza se i vostri domestici hanno ancora paura di uscire. Oh, grazie, disse Margaret, mi farà bene più di qualsiasi cosa. È l'aria di questa stanza che mi fa stare così male. Appoggiò la schiena sul divano e chiuse gli occhi. Fanny fece cenno a sua madre di uscire dalla stanza e le disse qualcosa che la rese tanto ansiosa di vedere andar via Margaret quanto questa lo era di andarsene. Non che credesse completamente alle parole di Fanny, ma ci credeva abbastanza da tenere un atteggiamento molto freddo con Margaret mentre si congedavano. Il signor Lowe ritornò con la carrozza. Se lo permettete, vi accompagno a casa, signorina Hale. Le strade non sono ancora del tutto tranquille. Margaret era ritornata completamente in sé, tanto che non vedeva l'ora di sbarazzarsi sia del signor Low che della carrozza prima di arrivare a Crampton Crescent, per paura di allarmare suo padre e sua madre. Per il momento non vedeva altro che quell'unico obiettivo. Non avrebbe mai potuto dimenticare quel brutto sogno in cui venivano pronunciate nei suoi confronti parole tanto insolenti, ma poteva metterlo da parte finché non fosse stata più forte, perché, oh, era veramente debole, e la sua mente cercava qualcosa di concreto su cui concentrarsi per evitare di perdere completamente i sensi con un altro brutto svenimento.